I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Una guerra più grave, quindi nuova, che cambia tutto, che permette di cambiare tutto, di giustificare lo stato d'urgenza e la demolizione programmata dello stato di diritto, tanto che lo stato d'urgenza diventa a sua volta una prova dell'emergenza e della necessità della guerra. Guerra e stato emergenziale sono le due componenti indissociabili dello stato in cui lo stato ci ha messe. Christine Delphi, apertura del meeting contro la guerra, Parigi, 15 gennaio 2016. Ciao a tutte, ciao a tutti. In apertura vi abbiamo letto delle righe che fanno parte di un intervento che ha fatto Christine Delphi appunto al meeting contro la guerra a Parigi questo gennaio appena passato. Christine Delphi è una femminista materialista storica che ha sempre che praticamente scrive e ha portato avanti da tanti anni, addirittura dagli anni 70, una rivista Question Féministe, che adesso è diventata Nouvelle Question Féministe, e che si occupa degli intrecci di genere e classe e del patriarcato come appunto lettura di un modello economico che fa parte della struttura capitalista. Lei ha partecipato a questo incontro contro la guerra che c'è stato appunto a Parigi a gennaio e ha parlato proprio dello stato, lei l'ha chiamato stato d'urgenza, noi potremmo tradurlo stato di emergenzialità in cui si trova la Francia. Allora, abbiamo aperto con questo perché? Perché Christine Delphi è autrice di un famosissimo articolo negli anni 70 che poi è diventato un libro anni dopo, eccetera, che si chiamava L'ennemi principale. L'ennemi principale in effetti parla della necessità del riconoscimento del nemico. In quel caso si riferiva al patriarcato. Però noi questa puntata abbiamo voluto dedicarla all'analisi, alle riflessioni femministe sulla guerra, sulla NATO, sulle mobilitazioni poi che sono state chiamate rispetto a questi argomenti importantissimi, a questi problemi importantissimi, ma l'abbiamo voluta impostare sul riconoscimento del nemico e adesso andremo a vedere perché. Allora, qualche giorno fa, insomma, il giornale, inteso come quotidiano, ha svelato che lo scorso 10 febbraio il Consiglio dei Ministri ha varato segretamente l'autorizzazione all'utilizzo di forze speciali italiane in Libia, al di fuori di qualsiasi autorizzazione dell'ONU e senza l'invito del governo libico, che peraltro è ancora qualcosa tutta da definire, no? E siccome si tratterebbe di invio di forze speciali per un'operazione tra virgolette di emergenza e non ancora di forze regolari e compagnia bella, si è potuto evitare proprio il percorso parlamentare. Allora, partendo da qui, non soltanto da qui, ma questo è il punto a cui siamo arrivati, sono state chiamate per il 12 marzo, questo qui prossimo, che è questo sabato alle porte, tutta una serie, cioè è stata chiamata una giornata contro la guerra e contro la NATO, e quindi sono state auspicate tutta una serie di mobilitazioni ed è stato fatto un appello. Allora, questo che abbiamo per le mani è l'appello generale che è stato, con cui è stata lanciata la mobilitazione del 12 marzo, e dice: 12 marzo mobilitiamoci in tutte le città. Allora, leggo a stralci perché cerco di prendere quelle che sono le cose che ci interessano di più. Dice: il nostro paese è in guerra. Questo è il primo fatto chiaro che va denunciato e su cui vogliamo chiamare alla mobilitazione per rompere il muro di bugie della propaganda del circo mediatico di regime. Siamo in guerra assieme alla NATO e a tutto il cosiddetto Occidente da 25 anni. E poi dice: queste nuove imprese, parla delle migrazioni bibliche, delle devastazioni, dei morti che queste guerre hanno provocato, no? Queste nuove imprese sono però inserite in un quadro diverso, nella grande crisi che attraversa il mondo da quasi 10 anni, nelle crescenti frizioni che questa crisi sta determinando tra poli e blocchi mondiali. E la chiama competizione fra potenze, no? Dice: si stanno trasformando queste guerre neocoloniali in guerre di egemonia e di sopravvivenza. In questo contesto, in questa competizione tra potenze, si determinano le guerre per procura successive alle primavere arabe: il massacro siriano, l'espansione dell'ISIS, la frammentazione della Libia con i suoi fronti confusi e sempre in cambiamento. Poi va avanti, parla dei fatti di Parigi, tutte cose estremamente condivisibili, ma poi dice: l'Unione Europea in guerra produce orrore. Unione Europea, UE e NATO, austerità e guerra sono ormai la stessa cosa. Poi continua, saltiamo, invece la decisione del governo Renzi di preparare e prima o poi fare la guerra in Libia ci espone a tutti i rischi terribili che abbiamo visto realizzarsi in altri paesi. Chiaramente quello che dice poi lo condividiamo in pieno, non è tutto vero. Però poi dice: bisogna che l'Italia esca dalla NATO, alleanza che oggi non ha più alcuna giustificazione politica e morale, giustamente, e manifestiamo per la fine immediata di ogni partecipazione italiana alla guerra, tutta una serie di punti che chiaramente sono tutti condivisibili, però ci colpisce tantissimo in questo appello una cosa, cioè che gli Stati Uniti non vengono nominati neanche per sbaglio, non viene analizzato il loro ruolo, ma non vengono nominati proprio. Qui esiste soltanto l'Unione Europea e la NATO. Infatti ci colpisce tanto questa cosa che nel comunicato poi del Comitato Romano per il 12 marzo che ci è arrivato, c'era arrivata una stesura in cui c'era una frase che diceva vogliamo dirlo e denunciarlo sin da ora, esattamente come diciamo che siamo contro questa nuova guerra e l'intervento militare contro la Libia, che vogliamo la chiusura delle basi NATO nel nostro paese, che chiediamo la riduzione delle spese militari e che intendiamo difendere la democrazia per la nostra e le altre popolazioni aggredite militarmente dai governi come quello italiano. I paesi che esportano la guerra verso altri popoli, gli USA anzitutto, ma anche diversi altri paesi della NATO come la Francia, la Gran Bretagna e l'Italia, ne importano le conseguenze negative attraverso la riduzione degli spazi democratici, i tagli alle spese sociali per sostenere le spese militari e le persecuzioni contro gli immigrati. Allora, nella stesura definitiva invece è sparita del tutto la frase gli USA anzitutto, ma anche diversi altri paesi della NATO come la Francia, la Gran Bretagna e l'Italia. Questa non c'è più nella stesura ufficiale, chiamiamolo così. Allora, anche questo ci ha stupito tantissimo, perché anche qui, anche in questo documento, gli Stati Uniti non vengono nominati neanche per sbaglio. Do you know Donna? Donna. Okay, sing the chorus to Donna with me, okay? Allora, proprio per questo noi, appunto, dato che ci occupiamo da tantissimo tempo ormai, riteniamo che occuparci degli scenari internazionali e degli scenari di guerra che si vanno impostando a sprombattuto e modificando e aprendosi continuamente, pensiamo che come femministe proprio abbiamo occuparci di questa problematica è molto importante proprio per le ricadute che ha sulle nostre lotte specifiche, cioè niente di quello che succede sul fronte interno è scisso da quello che succede sul fronte esterno, ma anche quello sul fronte interno, quello che succede sul fronte interno non è possibile scinderlo da quelle che sono le situazioni internazionali e le direttive neoliberiste che non sono un progetto italiano, ma sono un progetto dell'imperialismo americano. Quindi questo noi l'abbiamo sempre detto, il neoliberismo è un prodotto USA che è stato esportato in Europa attraverso l'Inghilterra e che poi si è irradiato in tutto l'Occidente. A questo punto questo togliere assolutamente, anche nominare, cioè in qualche documento di specifico come nel documento della rete No War Roma, ma soprattutto nella rete No War Napoli, che ha fatto l'8 marzo un presidio a Napoli sempre contro la guerra, gli Stati Uniti chiaramente compaiono, ma sono documenti di realtà specifiche, no? Questo che è la chiamata ufficiale e poi questa che è la chiamata del Comitato Romano non solo non le ha, appunto, ma cioè ci stupisce proprio il taglio che ha preso, quasi fosse una colpa dell'Unione. Va bene, non anticipiamo, andiamo per ordine, perché vorremmo su questo fare un discorso molto chiaro, in modo che si capiscano le nostre perplessità e la ragione per cui ho voluto farci una trasmissione apposta. Per esempio, no? Allora prendiamo l'Unione Europea. 22 dei 28 paesi dell'Unione Europea fanno parte della NATO e l'Unione Europea riconosce la NATO come fondamento della difesa collettiva. Però il comando USA, il comando NATO è USA. Il comandante supremo alleato in Europa è nominato dal presidente degli Stati Uniti e tutti gli altri comandi chiave della NATO sono in mano agli USA. Quindi come possiamo pensare che la NATO non sia uno strumento americano e che il dominio e l'influenza degli USA non passino direttamente nella NATO? Come possiamo pensare di nominare la NATO senza nominare gli Stati Uniti? Uscire dalla NATO è fondamentale, noi pensiamo che sia uno degli obiettivi più, cioè forse l'obiettivo più importante che si può mettere attualmente in agenda politica, quindi su questo non si discute assolutamente, però bisogna dire che cos'è la NATO e non si può legare la NATO all'Unione Europea, perché non è che l'Unione Europea esercita un'influenza sulla NATO, sembra il contrario, no? Infatti la NATO, che è, ribadiamo, sotto comando USA, ha inglobato tutti i paesi, per esempio, dell'ex patto di Varsavia. Allora, tre della ex Jugoslavia, che poi tra l'altro è stata destabilizzata, distrutta, annientata proprio dalla NATO, no? Con la guerra. Tre dell'ex Unione Sovietica. E poi, di fatto, già l'Ucraina è nella NATO, no? E quindi il fronte americano, il fronte statunitense si sposta sempre più a ridosso della Russia. Oltretutto quello che è successo con la Russia, no? Perché uno dice siamo all'interno di una nuova guerra fredda, gli equilibri tra le potenze che si fronteggiano eccetera. Beh, veramente ci sembra assolutamente diversa la questione, perché la Russia è stata accusata di destabilizzare la sicurezza europea eccetera eccetera, e si è aperto in pratica un fronte orientale. È l'Europa che è stata trascinata in questa questione, perché i rapporti invece Europa, Unione Europea, Russia erano fattivi, cioè avevano Russia e Unione Europea avevano degli interessi in comune, tant'è vero che le sanzioni alla Russia portano un notevole danno all'Italia, alla Germania, no? Le sanzioni volute dagli Stati Uniti sono dannosissime per noi. Nonostante questo, la Germania stessa non è riuscita a sottrarsi. D'altra parte, questo è il tentativo che gli Stati Uniti e anche le altre potenze occidentali, nessuno nega questo, hanno per ribadire una supremazia economica, politica, militare, però di cui gli Stati Uniti sono l'elemento dominante. Dopodiché, che cosa succede? Adesso l'imminente operazione in Libia dovrebbe essere a guida italiana, però è stata concordata con gli Stati Uniti. Cioè l'Europa, l'Unione Europea mica è stata concordata con l'Unione Europea, no? E comunque è stata concordata dagli Stati Uniti con le singole potenze europee, cioè soprattutto con la Francia, Gran Bretagna, cioè vengono prese come interlocutrici e vengono contrattati i rapporti singolarmente, non con l'Unione Europea. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black. D'altra parte, il percorso che ci ha portato fino a qui è ben lungo, no? Perché partiamo dall'Iraq 1991, Jugoslavia 1999, Afghanistan 2001, Iraq 2003, Libia 2011 e poi dal 2013 la Siria, con tutto lo scenario conseguente che queste operazioni hanno aperto negli stati, nelle regioni, nelle strutture di questa società e con la destabilizzazione che hanno portato drammatiche. Tutto questo è davanti ai nostri occhi, davanti agli occhi di tutti, non è che sono cose segrete o difficili da analizzare. Per cui il meccanismo che ha portato a questo e la filiera del comando che ha portato a questo dovrebbe essere estremamente chiara. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain together, for the wind to suck, for the sun to rock, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry. eccoci qui di nuovo. Intanto, come intermezzo fra una parte e l'altra della trasmissione, ci leggiamo la parentesi che è un po' la sintesi di quello che ci siamo detti finora. La parentesi di Elisabetta. L'ennemi principal. Christine Delphi, femminista materialista francese, dichiarava in un famoso articolo degli anni 70 che la questione più importante era l'individuazione del nemico, e nel caso in questione si riferiva al sistema di espropriazione e di dominazione patriarcale. Ma al di là dello specifico di quell'intervento, la dichiarazione è fondamentale, perché senza l'individuazione del nemico e lo smascheramento di come questo agisce, le lotte diventano inutili, fuorvianti e costituiscono un notevole spreco di energie. Oltre ad avere il dannosissimo risultato, proprio per il fatto che sono fuorvianti, di demoralizzare le militanti e i militanti e allontanarle dall'agire politico. Il discredito da cui ora è colpita la sinistra viene infatti da lontano, viene dalla mancata individuazione e denuncia con fermezza e determinazione del ruolo negli anni 60 e 70 del PC e della socialdemocrazia, cosa che ha permesso l'annientamento delle lotte di quegli anni e che ha trascinato fino ad ora l'equivoco su queste entità politiche nelle svariate configurazioni che hanno assunto, permettendo il massacro del concetto stesso di sinistra, la demonizzazione del termine compagno o compagna, per arrivare fino alle dichiarazioni che non esisterebbero più destra e sinistra, che la politica è sporca. Ora, leggendo la chiamata per le manifestazioni contro la guerra del prossimo 12 marzo, salta agli occhi la mancanza assoluta del nome, neanche pronunciato per sbaglio, degli Stati Uniti. Il neoliberismo, con tutti i suoi corollari, non rappresenta altro che la fase attuale del capitalismo nella sua autoespansione. Le delocalizzazioni industriali, le crescenti e disumane disuguaglianze, la povertà cronica e diffusa non sono il frutto della crisi o la fatale conseguenza dello sviluppo sociale, ma il risultato di decisioni che riflettono il forte spostamento dei rapporti di classe in favore del capitale. Il modello non è da inventare, non si costruisce a tentoni, ma è quello statunitense. L'America riplasma il mondo a sua immagine. Ma tutto ciò passa attraverso la colonizzazione semiotica e ideologica che si opera con la diffusione di metaconcetti. Disimpegno dallo Stato sociale, rafforzamento delle componenti poliziesche penali, riduzione delle tutele del mercato del lavoro e delle tutele sociali, e attraverso la celebrazione moraleggiante della responsabilità individuale si approda alle guerre umanitarie. Il tutto va di pari passo con la sistematica dissoluzione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, con la precarietà, con carichi di lavoro disumani, con il controllo vigilanza sul luogo di lavoro, con la caccia ai sindacati non allineati, con la rimessa in discussione del diritto di sciopero, con la totale flessibilità dell'orario di lavoro. È un progetto insieme ideologico e economico. La fase attuale del capitalismo ha la sua principale caratteristica nell'offensiva che degli Stati Uniti tesi ad assoggettare con ogni mezzo a disposizione tutte le potenze amiche e rivali. Ottenere a tutti i costi il dominio egemonico è per gli USA un imperativo imposto dalle condizioni oggettive, al fine di superare la spaccatura strutturale tra capitale transnazionale e stati nazionali. Da qui l'attacco all'Europa, che ha le radici profonde nel disprezzo della democrazia e dello Stato sociale iscritti negli Stati europei, e che oggi si basa sulla necessità di impedire la coesione dell'Europa, di sgretolarne la moneta e il mercato unico. Infatti, Henry Kissinger, in un discorso intitolato L'anno dell'Europa, consigliava agli europei di esercitare le loro responsabilità regionali nel quadro globale di un ordine mondiale determinato dagli Stati Uniti. Ogni soluzione indipendente era dunque già condannata. Strumento principe della politica di espansione militare è la NATO, trasformata in esercito di aggressione sotto comando USA. Legare l'Unione Europea alla NATO senza nominare gli Stati Uniti è fare un'operazione di pericolosa mistificazione, dato che l'Europa è sotto il dominio culturale e militare degli USA. La Germania è piena di basi militari e l'Italia è una portaerea americana, e il TTIP sarà il colpo di grazia a qualsiasi tentativo di autonomia da parte dell'Unione Europea. E allo stesso tempo dire che quello in atto è uno scontro tra varie potenze imperialiste significa confondere l'aggressore con l'aggredito, dimenticare che l'accerchiamento alla Russia è opera statunitense, e noi sappiamo che quando si mette sullo stesso piano chi aggredisce e chi è aggredito significa stare dalla parte del più forte. E pensare che il governo Renzi abbia un'autonomia decisionale rispetto agli Stati Uniti è altrettanto pericolosamente mistificante, perché è proprio il PD a rappresentare e a naturalizzare il neoliberismo nel nostro paese e a essere portatore del modello americano. L'aggressione alla Libia del 2011 è stata fortemente voluta dal PD e dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, benché fosse chiaro che era assolutamente contro gli interessi italiani. Renzi non è altro che un governatore incaricato dagli USA di una colonia che si chiama Italia. Il neoliberismo, questa nuova società che si proclama moderna, tra virgolette, si basa su una serie di opposizioni e di equivalenze che si sostengono e si rispondono a vicenda per descrivere le trasformazioni di una società avanzata, attraverso una retorica a cui i governi ricorrono per giustificare la loro volontaria sottomissione ai mercati finanziari. In questo modo gli Stati Uniti impongono al resto del mondo categorie di percezione analoghe alle loro strutture sociali, rafforzando così le pretese universalistiche. Attraverso un ragionamento binario costruito compiutamente, l'alternativa è fra essere individui, partiti, stati, democratici fra virgolette, capitalistici fra virgolette nella versione americana, oppure comunisti, terroristi, islamici. Per questo non nominare nelle mobilitazioni contro la guerra il ruolo, l'essenza, la strategia statunitense significa non riconoscere chi è il nemico principale e paradossalmente consegnarsi mani e piedi proprio alla guerra. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south. The bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rock, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry. e svidasa gnjazda mi ve, pa radje dino tmaše, se maka maku savura. E svidasa gnjazda mi ve, pa radje dino tmaše, se maka maku savura. Angola, Angola, ich popsa, a minjoska tamata, menku arpa manja kami. Angola, Angola, ich popsa, a minjoska tamata, menku arpa manja kami. Es convivência, desnios vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Es convivência, desnios vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Angola, Angola, e força, caminhos catamata, vem para a banha. Angola, Angola, e força, caminhos catamata, vem para a banha caminho. Allo stesso tempo, tutto quello che abbiamo detto finora è perché vorremmo portare avanti una critica costruttiva, perché riteniamo assolutamente importantissimo il discorso contro la guerra, contro la NATO, l'uscita dalla NATO, praticamente il fatto che in qualsiasi modo e in qualsiasi maniera si portino avanti delle lotte, delle contestazioni, dei qualsiasi tipo di armamentario di ribellione rispetto a questa cosa è positivo. Certo, non si devono usare meccanismi di fuorvianti di analisi, perché altrimenti poi non si capisce dove stiamo andando e contro chi stiamo lottando. Però per esempio giorni fa è successa a Bologna, c'è stata un'azione che è stata molto interessante e costruttiva. Sì, ci sono state delle contestazioni nei confronti del professor Panebianco, che insomma non è nuova di interventi, ma quantomeno un po' delle analisi un po' personali, ecco, della diciamo situazione. Guerra fondaia, proprio sì, punto. Sì, ecco, io mi ero mantenuta più su un tono diplomatico. Non è nuovo appunto a questo tipo di interventi ed è stato contestato. La cosa molto grave, e questo lo dico, è un dato che c'è, che va rilevato subito, è che è stato dato uno spazio a queste contestazioni studentesche facendole passare per delle manifestazioni di inaudita violenza, pericolose per lo svolgimento democratico e per la giusta diffusione del sapere, il pluralismo, il rispetto dell'altrui opinione, quando insomma voglio dire ma magari ce ne fossero di più di contestazioni di studenti che si ribellano anche in un modo altro. Ecco. Vado nell'altro, nell'altro ancora. Le contestazioni un tempo, ma sono sempre state, non dico all'ordine del giorno, ma fanno parte del normale decorso anche della vita accademica, della vita universitaria, della vita studentesca. Sono lo spirito stesso della vita studentesca all'interno dei luoghi del sapere, ed è stata fatta, mossa una decostruzione mediatica e sistematica voluta nei confronti di questi di queste manifestazioni di dissenso, e questo è gravissimo, è gravissimo, gravissimo, perché li hanno dipinti come se fossero andati lì con le bombe, quando invece erano contestazioni che avevano tutto il loro diritto di essere portate avanti all'interno di un discorso democratico, diciamo, appunto, fanno, tra virgolette, anche perché erano cose dimostrative essenzialmente, ma magari ce ne fossero. Io sono ancora più netta, nel senso che ovviamente oltre a dare la solidarietà a tutti i compagni e le compagne di Bologna, del CUA, che sono riusciti comunque a portare in campo con le loro pratiche politiche il loro pensiero, anche perché appunto penso che tutti quanti voi che ci state ascoltando sappiate perfettamente di che cosa sta parlando Pane Bianco nei suoi ultimi articoli, cioè nel senso della paura del Medio Oriente e il fatto che bisogna intervenire, l'appoggio agli Stati Uniti, eccetera. Quindi ovviamente l'importanza di questa contestazione è stata soprattutto, come ricollegandoci prima al discorso fatto da Eli, alla questione del fatto che appunto anche in molti comunicati la presenza degli Stati Uniti e del suo ruolo all'interno comunque di quello che è lo scacchiere geopolitico dove si svolgono appunto tutte queste bellissime guerre fatte non tanto dall'Unione Europea e fatte dalla NATO, ma fatte dalla NATO nel senso che scelte dall'imperialismo statunitense. E rispetto a questo ovviamente si è espresso anche rispetto a quello che sono le battaglie, i terreni di lotta che abbiamo qua in Italia, pensiamo un po' al Non Muos, no? Che è stato, esatto, definito fondamentalmente una specie di lotta ecologista, così insomma, come sì, non sì, buttare la cartaccia per terra, sì, più o meno. Addirittura ha nominato le mamme che si preoccupano troppo dell'ambiente, sì, le mamme, quasi per definirle delle sì, povere ignoranti, perché le mamme si preoccupano e quindi ansiose, l'ansia delle donne, cioè in questo appunto l'analisi femminista proprio può dare il suo contributo, non che ce ne sia bisogno, perché con personaggi di questo genere effettivamente è palese. Però una cosa importante che è uscita fuori rispetto alla questione della contestazione c'è, l'abbiamo spesso poi fatta uscire in qualche modo, e riguarda appunto sia la questione della famosa libertà d'espressione, che insomma con gli attentati di Parigi o Charlie Hebdo già avevamo in qualche modo, no, provato ad analizzare, appunto, che sono due pesi e due misure, ma nemmeno troppo il due pesi e due misure, addirittura proprio il cambiamento e lo sradicamento totale del concetto che viene espresso a seconda da chi viene espresso. Questa è la manifestazione del potere, non è nient'altro che questo. E quindi questo poi si ricollega, e per fortuna, diciamo, qua e là anche nel mondo mainstream si è letto qualcosa di vagamente condivisibile, insomma, e soprattutto perché in alcuni articoli viene riportato il nucleo, no, originario di tutta la situazione che riguarda la Libia, per ritornare un po' ai giorni nostri, e quindi ricordarci un po' che tutta la questione di Gheddafi o di Saddam Hussein sono state questioni che riguardavano semplicemente il fatto che a un certo punto non era più possibile continuare la colonizzazione, continuare lo sfruttamento di un paese che non era ovviamente disposto e più disponibile a piegarsi di più a altri giochi, nonostante appunto non è che fossero, insomma, sì, i salvatori della patria, però comunque si sono opposti a questo gioco, e sappiamo perfettamente che fine hanno fatto. Sì, io peraltro prima parlavamo, io ho aperto parlando, sottolineando il fatto che vengono demonizzate le contestazioni, e volevo aggiungere sempre rispetto a questo discorso che non solo vengono demonizzate in quanto tali, spesso e volentieri, ma vengono demonizzate soprattutto quando hanno alla base un motivo, una motivazione e un senso politico. Certo. Un senso politico che non sia però istituzionalizzato, perché noi viviamo in un periodo in cui il conflitto è sistematicamente, il conflitto sociale viene sistematicamente istituzionalizzato, che sia attraverso i media, che sia attraverso le istituzioni propriamente dette. Quindi io ti do la libertà di parola, cioè l'illusione della libertà di parola, nel momento in cui tu puoi dire quello che vuoi, tu ti senti, puoi sentirti libero. Nel momento però in cui questo si declina come movimento politico, come dissenso ragionato, perché c'è comunque una costruzione del dissenso, perché il dissenso non è che uno si alza la mattina e fa una rivolta così contro chiunque. Nel momento in cui è ragionato ed è un attimo organizzato, questo viene puntualmente demonizzato e represso. E questa è la cosa, e questa è una cosa secondo me gravissima, perché è un indice di quello che stanno portando, del discorso che stanno portando avanti, il discorso politico del governo, insomma, istituzionale, che portano avanti. Cioè il reprimere in modo sistematico, poi lo vediamo anche anche rispetto ad altri aspetti dirimenti che fanno parte della contestazione, sgomberano ovunque centri sociali, insomma c'è un si va in una certa direzione giustizialista, certo. Quindi insomma fa parte di un quadro, certo. Evidentemente. E a questo proposito, proprio perché siamo in chiusura, viste le parole che ci ha suggerito Maria Silvia e l'argomento che ci ha suggerito Maria Silvia, potremmo chiudere con la lettura del nostro comunicato per l'8 marzo, che riguarda proprio questo. Siamo tutte prigioniere politiche. La scelta del neoliberismo di chiudere ogni spazio di mediazione non è soltanto una maniera utilitaristica di togliere servizi e stato sociale, ma è una vera e propria modalità di controllo collettivo. È cominciato tutto dal mondo del lavoro e da qui si è radiato a macchia d'olio in ogni aspetto e anfratto della vita. Gerarchizzazione, meritocrazia, autoritarismo, ricatto lavorativo, precarietà hanno abolito ogni forma di contrattazione tra chi lavora e chi detiene le chiavi del modello economico. La precarizzazione non è altro che uno strumento di ricatto e di ridefinizione dei rapporti di forza con tutte e tutti. Il comando di fabbrica si è così esteso a tutto il sociale, trasformando completamente i rapporti di classe. I rapporti di forza sono fortemente squilibrati. La dichiarazione unilaterale della fine della mediazione e quindi della rottura del patto sociale ha tracciato un solco visibile tra chi detiene il potere e le classi subalterne. Ci ricorda i fossati che circondavano i castelli e che segnavano fisicamente la differenza di classe, chi è dentro e dentro, chi è fuori e fuori. Distanza che si percepisce anche ora. I centri urbani sono sempre più caratterizzati da una città degli dèi, in cui si entra soltanto in certe ore e con certe modalità per lavorare, per servire o per partecipare ai riti collettivi della subalternità, e le periferie sempre più ghettizzate e trattate come territori pericolosi. Questa distanza fisica e sociale, sancita dalla fine di ogni mediazione, si ripete in ogni ambito, sia sul fronte interno che sul fronte esterno. La filiera del comando parte dagli Stati Uniti, che hanno la pretesa di porsi come stato del capitale e momento organizzativo delle multinazionali anglo-americane, e arriva alla socialdemocrazia riformista, qui da noi il PD, che si è assunto l'incarico di naturalizzare il neoliberismo nel nostro paese. I popoli del terzo mondo in questo progetto devono rinunciare a qualsiasi tentativo di autodeterminazione, si devono assoggettare, devono accettare di essere sudditi dell'impero o pagare a caro prezzo, perché la risposta è la destabilizzazione con la colonizzazione neoliberista, caratterizzata da guerre interetniche, religiose, tribali, appositamente fomentate, che dividono, scardinano ogni tentativo di autonomia, disgregano stati. Chiunque sia considerato asimmetrico al progetto imperialista viene affrontato con la modalità violenta della guerra, ammantata dalla tutela dei diritti umani, delle donne e delle diversità, della democrazia. Il terrorismo viene creato appositamente dalle potenze occidentali in modo da essere usato in qualsiasi momento venga ritenuto utile, e allo stesso tempo un'etichetta, un marchio itinerante che perseguita tutti quelli che osano ribellarsi. Anche qui non è prevista nessuna possibilità di mediazione. Sul fronte interno, la chiusura di ogni trattativa a qualsiasi titolo con le oppresse e gli oppressi comporta considerare le classi subalterne come delinquenziali, le loro lotte prive di qualsiasi dignità politica, le loro rivendicazioni da sopprimere con la forza. L'unica risposta del neoliberismo qui e nel terzo mondo è quella militare e poliziesca. Ma se siamo tutte e tutti lette considerate e considerati come delinquenti, la nostra risposta deve essere altrettanto forte. Siamo tutte e tutti detenute politiche, siamo noi a respingere qualsiasi forma di mediazione, siamo noi a dichiarare che ci assumiamo collettivamente e per intero la responsabilità politica di ogni lotta passata, presente e futura. Affermando questo, viene meno qualunque rapporto con il potere, noi non abbiamo niente di cui essere accusate e di cui rispondere. Mentre al contrario tutti e tutte coloro che rappresentano e supportano il sistema neoliberista devono rispondere della pratica criminale del regime che si rappresentano. Ne consegue la necessità di rifiutare ogni collaborazione con il potere a qualsiasi titolo. Con questa dichiarazione intendiamo riportare lo scontro sul terreno reale. Una detenuta politica prima di tutto deve rivendicare il suo status. Respingiamo la logica vittimizzante che ci dichiara oppresse e oppressi, e tanto più quella spoliticizzata che ci dichiara poveri e poveri. Siamo prigioniere e prigionieri, e come tali abbiamo il diritto dovere di liberarci. In chiusura di trasmissione vogliamo ricordare le lotte che portano avanti da tanto tempo le compagne e i compagni in Sardegna contro le basi NATO, contro la guerra, contro il militarismo, e ultimamente hanno fatto una manifestazione a Decimo Manno contro per la chiusura dell'aeroporto di Decimo Manno, e sono continuamente soggetti a repressione di qualsiasi tipo, di tutti i tipi, dai domiciliari ai provvedimenti amministrativi restrittivi, proprio perché loro sono di fatto su un fronte di guerra, hanno le basi direttamente a casa loro, con tutte le conseguenze che questo comporta. Quindi un saluto particolare va a tutti i compagni e le compagne del no border.noblogs.org, su cui potete trovare, che è il loro blog, su cui potete trovare tutto quello che fanno e tutti i materiali. Un saluto particolare va alle lotte No Muos, un saluto particolare va alle lotte No Tab, che a quelle contro al No Trib, tutti a quelle contro le grandi navi. Non saprei neanche da che parte cominciare, però sono tutte sono tutti momenti di resistenza che potrebbero trovare nel fronte comune contro la guerra un modo anche per tessere legami. Anche noi come femministe riteniamo che il nostro agire politico per la nostra liberazione sia profondamente legato a tutte queste lotte, alle lotte contro ogni tipo di autoritarismo, di militarismo, di gerarchia, di meritocrazia. In fin dei conti vogliamo uscire da questa società. Un saluto particolare, un abbraccio particolare a tutte quelle e a tutti quelli che sono privati della loro libertà. Per leggere quello che scriviamo, i nostri materiali, potete andare su coordinamenta.noblogs.org, per scriverci scrivere a coordinamenta@autistiche.org, e per finanziare questa radio, che ha tantissimo bisogno di essere supportata, perché vive soltanto dei contributi di chi l'ascolta, di chi la vuol fare vivere, di chi pensa che sia una cosa importante, potete andare su www.ondarossa.info e trovate tutte le modalità per finanziare Radio Onda Rossa. Un grande saluto a tutte, ci rivediamo, ci sentiamo mercoledì prossimo.